sta succedendo adesso, stanno tentando di entrare adesso, stanno trascinando via i ragazzi che sono seduti qui al sit-in, stanno cominciando a volare le prime manganellate, i ragazzi stanno provando a resistere, a fare blocco davanti al cancello. Per adesso è il cordone che era in via Borgolocchi, si è spostato, quello di il baraccano è ancora fermo sulla destra. Ok, quindi ricapitolando appunto, ci sono le forze dell'ordine che sono già entrate nella struttura da via Santo Stefano. No, ma abbiamo avuto notizie dall'interno appunto, da chi si trova all'interno. Hanno provato a forzare un blocco che era sull'altro lato di via Borgolocchi, ma non mi pare che fossero entrati. Comunque in ogni caso adesso le persone che erano ferme al presidio sedute per terra vengono portate via di peso. Stanno rimuovendo di peso tutti e stanno tentando di entrare all'interno del cancello. Ci sono c'è un cordone di ragazzi che sta provando a porre resistenza davanti al cancello in piedi, e il resto di tutti gli attivisti, ragazzi, che sono qui, sono trascinati via di peso. Sì, scene che abbiamo visto anche in altre operazioni. Quindi insomma, quello che vogliono fare è entrare anche dall'ingresso principale di Via Orfeo. Stanno cercando di entrare dall'ingresso principale, sì. Il cancello per ora è chiuso, semiaperto per circa mezzo metro. All'interno ci sono altri attivisti, per ora stanno c'è un cumulo di paglia anche a fare blocco, per adesso stanno volando manganellate, caschi e quant'altro, anche qualche, non so, qualcosa di liquido sembra essere volato addosso alla polizia. Per ora fondamentalmente si sta tirando di tutto. Ma c'è qualche motivo per cui, come dire, da un atteggiamento di tranquillità relativa ovviamente è scattato poi questa azione? Guarda, all'improvviso sono stati qui almeno fermi da quando mi hai chiamato l'ultima volta fino ad ora, e poi uno dei due cordoni della cellula si è mosso. All'improvviso hanno cominciato a correre verso l'ingresso principale e hanno cominciato a passare il blocco che era qui davanti al cancello. Per ora il cancello è chiuso, è stato richiuso, anche quel mezzo metro che era aperto è stato bloccato e attenzione a non essere coinvolto tu. Certo, attimi di concitazione, comunque sta succedendo qualcosa anche sull'altro cordone in piazza del Baraccano, non si capisce cosa. Aspetta un attimo. Certo. Allora, intanto che tu cerchi di capire cosa sta accadendo, faccio un breve riepilogo. Questa mattina le forze dell'ordine si sono presentate per sgomberare la BA, il centro sociale di via Orfeo 46. Come dire, la zona del quartiere Santo Stefano è assediata perché ci sono stati blocchi stradali sia dall'angolo di via Borgolocchi, appunto di in piazza Santo Stefano, di via Orfeo, e dall'angolo del piazza del Baraccano. Quindi è impossibile l'accesso dall'entrata principale di Labà, ma le forze dell'ordine hanno tentato di entrare anche da via Santo Stefano, quindi dagli ingressi laterali o retrostanti, insomma, dello stabile, per sgomberare il centro sociale. Cristiano, sei riuscito a capire un po'? Allora, per ora si è spostata l'azione dal cancello, si è spostata alla strada, quindi ci sono violenze a campione fondamentalmente. Adesso si è un po' sfaldato l'ordine che c'era prima, l'attenzione non è più rivolta verso il cancello che è stato chiuso, ma stanno cercando di rimuovere tutti dalla strada, non ha molto senso tutto questo che sta succedendo adesso, e stanno cercando di spingere tutti fuori dalla zona presidiata, quindi parecchia gente viene spinta fuori verso piazza del Baraccano. Quindi una carica, ci sono anche manganellate, dicevi? Sì, assolutamente sì. Sì, scudi, manganelli, tutto. Credo che qualcuno stia anche cominciando a sanguinare, non sono sicuro, però ho visto del rosso che ci stanno spingendo tutti verso piazza del Baraccano. Ok, quindi insomma il tentativo è quello di rimuovere il presidio che era nell'ingresso principale di Labà, davanti a via, al numero civico 46 di via Orfeo, spingendo tutti gli attivisti verso piazza del Baraccano per probabilmente cercare di entrare anche da lì. Per cercare poi di entrare all'interno del cancello, che adesso è praticamente sgombero, quindi ogni qui spazio distante è praticamente sgombero adesso. Ok. Davanti al cancello, ecco, sono praticamente tagliato fuori. Davanti al cancello ci sono solo poliziotti in tenuta antisommossa più assemborghese. Abbiamo ancora però un piccolo accesso, c'è ancora qualcuno che viene manganellato qui davanti al cancello. Però la maggior parte di tutti quelli che stavano presidiando l'ingresso della base è stata spinta fuori. Ok, però quindi esiste questo blocco di paglia qui davanti, il cancello è stato aperto, non interamente, ma abbastanza per entrare? Terra, abbastanza per entrare sicuramente, sì. È aperto per tre quarti adesso. C'è qualcuno a terra di cui non riesco a comprendere le condizioni? No. Aspetta, qualcosa sta succedendo sul baraccano qui. Ecco, praticamente in questo momento siete a panino, da un lato le forze dell'ordine che hanno tagliato fuori gli attivisti dall'ingresso principale e dall'altro il cordone su Piazza del Baraccano? Sì, praticamente tutto questo, tutto il cordone del Baraccano si sta sfaldando perché ci stanno spingendo sempre, sempre più fuori, i ragazzi però si stanno combattendo qui davanti, davanti alla chiesa, e per ora il grosso è spinto qui nell'ingresso che, del baraccano che da che connette via Santo Stefano alla piazza. Ecco Cristiano, ovviamente sono fasi concitate, quindi la cosa più importante è evitare di farti male tu, però se riesci, certo, a capire se ci sono persone ferite o contuse e capire insomma se questa carica ha avuto delle conseguenze, poi ovviamente ce lo racconterai. Certo, per ora non mi sembra che nessuno stia almeno sanguinando, qualcuno con delle contusioni sicuramente c'è stato. I ragazzi sono finiti a terra, per ora il cancello, adesso siamo stati spinti qui su Piazza del Baraccano, per ora è tornata una relativa calma al momento, perché si sono di nuovo creati due schieramenti, c'è la celere da una parte e tutto il resto degli attivisti e ragazzi di qui, siamo distano più o meno una decina di metri l'uno dall'altro e cerco di capire cosa sta succedendo davanti al cancello. Sono le due camionette che stanno tentando di bloccare l'ingresso in via Orfeo, stanno bloccando l'ingresso in via Orfeo. Ok, quindi le camionette si sono spostate e si sono posizionate davanti all'ingresso di via Orfeo, davanti all'ingresso di via Orfeo, certo, per impedire che gli attivisti possano ritornare. Sì, esattamente. Io cerco di, sì, praticamente adesso c'è solo polizia lì davanti e non sono però ancora entrati tutti, c'è un fermo sicuro, uno dei ragazzi che era qui a presidio, almeno un paio di ragazzi adesso vengono portati fuori dalla zona di via Orfeo che è praticamente chiusa sui due lati, c'è sui due lati di prima dove era dispiegato il cordone della celere, quindi una camionetta su angolo via Borgolocchi, l'altra su Piazza del Baraccano. E per ora sono ancora dispiegati fuori, non stanno entrando. Credo ci sia ancora una sacca di resistenza all'interno della struttura. Certo, attivisti anche all'interno della struttura che cercano di impedire l'ingresso dal cancello principale. È stato appiccato del fuoco all'interno, fuoco oltre ai fumogeni che sono stati spesi prima. Sono scoppiate diverse bombe carte, sia fuori che all'interno della struttura. E per ora sembra tutto abbastanza tranquillo perché il passaggio è stato reso di nuovo disponibile. La camionetta che era all'angolo di Piazza del Baraccano si sta spostando. Quindi adesso abbiamo ancora la possibilità di passare. Sono a fianco degli altri fotografi, sto cercando di fare qualche foto. Il cancello è praticamente quasi tutto aperto per tre quarti almeno, provo a vedere cosa sta succedendo all'interno, c'è un grosso, c'è del fuoco che è stato appiccato qui all'ingresso, immediatamente all'ingresso della struttura, adesso stanno rimuovendo il blocco di paglia che era davanti al, hanno chiamato i vigili del fuoco, starebbero per arrivare i vigili del fuoco. Per ora c'è scarsa visibilità, io sono praticamente in mezzo alla celere, in mezzo alla polizia davanti all'ingresso. La struttura, ma la visibilità è abbastanza scarsa perché c'è il fuoco qui immediatamente davanti. Altri blocchi di paglia sono Certo, non si riesce a capire ovviamente cosa, cosa c'è oltre. Altri pezzi di paglia che hanno preso fuoco, fondamentalmente, che all'interno della caserma. Sì, questo ce lo diceva anche Francesca, che è un'attivista di Labà, che hanno appiccato questi fuochi per impedire l'avanzata delle forze dell'ordine. Vediamo se... Sì, quantomeno per rendere una visibilità un po' più scarsa, diciamo, almeno quello. Certo. Solo che per ora c'è ancora, resiste una sorta di blocco interno, perché ci sono ancora delle transenne, c'è ancora un blocco dei blocchi di paglia con dei pneumatici, un po' di tutto a fare resistenza. Infatti tutto il cordone della Cevere, che era su via Borgolocchi, è praticamente dispiegato qui davanti all'ingresso, ma non sono ancora entrati, sono praticamente con un piede quasi dentro, ma per ora sono ancora fermi, e sembra essere tornata una relativa calma sia da un lato che dall'altro.